Non avete niente altro da fare? Buongiorno a tutti. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Allora, oggi Franco Bertanini, autore di questo programma, Valeria Bernardi in regia. Oggi sono con il mio amico Pierluigi Pardo, che è uscito vivo dalla puntata di Tiki Taka con Ferrero. Siamo? Dove mi hai portato? Siamo in una... Siamo alla fiera di Milano Raw e siamo qui. È tutto Match and Grow. Match and Grow praticamente è una fiera B2B, mi hanno spiegato B2B. Sì, è una fiera B2B ed è tutto Match and Grow. Grazie, match and grow, cioè incontra carino e cresce. No, da quello che ho capito, a parte le battute, è molto interessante, perché sappiamo bene che spesso fra le aziende, certo, è importante parlarsi, vengono fuori mille grandi idee, quindi qui ci sono tantissime aziende che si confrontano, parlano un po' come facciamo io e Genta spesso, sì, solo che noi parliamo di dove andiamo a cena e loro invece parlano di sviluppare un business, sì, in maniera, quindi è un po' diverso. Cioè, però c'è anche la Juventus e la Roma, visto gli stand? No, non ho visti, sì, ma ci saranno. Non so, Piantanita va guidato, ma teleguidato come fossi un col GPS praticamente. Italiani... Vieni arancione, giallo, c'è, cioè Piantanita abbiamo già salutato. Sì, quante volte vuoi salutarlo. Italiani in ghiaccio stasera. Italiani in ghiaccio. Per trovare il passaggio a nord-est della Champions League. Bello questo, eh? Non c'è, male. Anche preparazione, c'è, cioè studio, eh? Alle... No, sì, diciamo che fra oggi e domani ci giochiamo molto e la caratteristica comune ovviamente è il gelo, il fatto che si gioca in trasferta. Sono state due partite che sono arrivate all'inizio del girone e ci avevano illuso, perché tutte e due avevano vinto molto bene, la Roma in maniera addirittura spettacolare, la Juve comunque in maniera molto solida contro il Malmo, ma adesso quattro partite dopo purtroppo siamo ancora in bilico, il che da un lato non nevichi a Malmo, eh? Sì, no, speriamo che non nevichi a Malmo, sì, questo senz'altro. Ah, per sì, certo, cioè, il riferimento. No, la Juve ha questo tabù in trasferta che dura da Glasgow ed è un tabù chiaramente abbastanza lungo, però io sulla Juve ho sensazioni ottimistiche, perché insomma questa squadra nelle ultime due uscite ha fatto vedere cose eccezionali e mi sembra che il passaggio alla difesa a 4, il trequartista, insomma questo tipo di modulo diano forza e diano alternative e possono essere perfette per una svolta europea, per giocare, sì, in una maniera un po' più europea, un po' più, beh, propositiva, certo, appunto, proprio se sulla scorta di queste grandi sensazioni, bravissimo Allegri fin qui nel gestire tutta la situazione, però adesso siamo alla, davvero al passaggio di una, ma guarda, ieri l'ha detto secondo me Zenga in maniera molto molto che chiara, ha detto, molto, ha detto mille cose e, a proposito di Allegri, c'era proprio questo elemento, io condivido pienamente, cioè Allegri è partito secondo me saggiamente, conservando quello che c'era, che era già molto, perché Conte veniva evidentemente dai grandi successi, dando certezze alla squadra, era importante in un momento in cui anche lui era un po' sotto, no, sotto esame e non era stato accolto da una grande benevolenza. Adesso sta cominciando a mettere in piedi la sua idea di Juve, che è un'idea diversa, insomma, anche perché, come dicevamo l'altro giorno, è bello vincere sicuramente, è bello confermarsi, ma se si riesce a farlo con un'idea di gioco propria e non soltanto con la conservazione di quello che è avvenuto prima, è ancora no, ma poi la genesi di come ci è arrivato, cioè, certo, ha disegnato la sua Juventus nel momento più difficile, cioè in casa con Olympiacos, in quella partita tesissima, dentro fuori eccetera, lì ha avuto grande coraggio secondo me Allegri. Assolutamente. Senti, ma Zenga ti ha detto qualcosa dell'Inter? Sì, è stato contattato. Non visto, l'unico non ha visto di Chitaga ieri. No, ne ho visto un pezzo. Che, no, che... Ha detto che è finita. Ma c'è stato un momento molto, molto netto in cui gli ho detto: ma pensi che ci sarà ancora una possibilità all'Inter? No, il mio sogno è finito. Zenga, in un'altra vita, perché in questo momento ero libero. E prima non ero mai libero. Pensavo ci fosse un riferimento velato a qualcuno, era solo torto, perché in questo momento sono libero da contratto a una squadra. Quando era successo precedentemente invece ero sotto contratto e non potevo liberarmi, e era per questo riferito a un'altra vita, perché adesso chiaramente io andrò a firmare un contratto con altre squadre e mi impegnerò con altre squadre. Beh, ma all'Inter le storie non finiscono mai, comunque, è una ruota che gira, vedrai che ripassa il treno. Però, anche per Zenga, prima o poi ripassa il treno anche per Zenga. Credo che questa fosse veramente per lui l'occasione, fra l'altro insomma credo di non dire nulla di compromettente, mi ha fatto leggere dei messaggi privati, quindi insomma diciamo che sono un testimone oculare del fatto che una trattativa almeno apparentemente c'è stata. Sì. E poi è stata non economica, da quello che mi risulta, insomma era una fase ancora interlocutoria, però era o uno o l'altro, è stato scelto Mancini. Comunque, guarda, dire, da un certo punto di vista è anche una scelta che ci sta, no? Perché comunque Mancini ha un profilo per quello che ha fatto già all'Inter. Non c'è interista che non sia felice. Guarda, prima parlavo con due signori, due amici, due ascoltatori che hanno incontrato qui. E lo metto su Dai, Twitter. Fallo. Così in diretta, sì, mi dicevano: noi siamo interisti, meglio arrivare ottavi con Mancini che terzi con Mazzarri. Non lo sopportavano, no, cioè non lo sopportano più. E continua a piangere. Ma non c'è interista che non sia felice di questo cambio di panchina. Questo non ci sono dubbi, è pazzesco. L'abbiamo detto mille volte: non è una cosa che può essere solo legata al campo, è un fatto proprio di sintonia che non c'è stata mai con questo allenatore. E va bene così, insomma. Adesso chiaramente comincia il difficile, nel senso che è passato il trionfalismo, l'entusiasmo, la presentazione, adesso l'Inter dovrà necessariamente ritrovare dei risultati che non sono semplici. La partita dell'altro giorno, come dicevamo ieri, è stata deludente non soltanto secondo me dal punto di vista della qualità del gioco, perché poi non è stato neanche un derby così brutto. Secondo me non è stato così brutto. È proprio la sensazione dopo questo pareggio che siano due squadre sospese in un limbo dove, nella migliore delle ipotesi, ci vuole un miracolo per arrivare terzi, e poi l'obiettivo è qualificarsi per l'Europa League, con tutto il rispetto per l'Europa League. Allora, adesso ci fermiamo per la borsa, che per il traffico. La borsa dopo, adesso il traffico ci interessa. Ci interessa. Io tangenziale nord era libera, lo dico. Sì. E poi salutiamo un amico e parliamo di Roma. Il bicchiere com'è? Mezzo pieno, mezzo vuoto, mezzo? Mezzo pieno. Innanzitutto si è vista una volontà diversa. E poi noi interisti abbiamo il sospetto, che Zenga sicuramente condivide, che la stessa Inter con gli stessi giocatori, una panchina diversa, una settimana prima quel derby l'avrebbe perso. Convocati. Abbiamo vinto la prima gara contro il CSKA, che non arriviamo qua con molta umiltà, perché sappiamo che sarà un'altra gara. L'ambizione non cambia, è quella di vincere la partita, ma anche con un pareggio può essere un risultato utile per tenere ancora il nostro destino nei nostri mani. Non vuol dire che giocheremo per questo pareggio, giocheremo come di solito per vincere, che sia in casa sia in trasferta. E dopo fare un bilancio sulle trasferte, quando si è giocato a Manchester City, a Bayern Monaco, a Napoli, mi sembra una cosa un po' ridotta. Questo Garcia, il vostro numero verde invece 800240024, Pierluigi Parda qui con me e Roberto Renga è collegato con noi. Buongiorno, ciao Roberto. Ciao. Sì, buon pomeriggio a tutti. Come va? Ecco, benissimo, grazie, anche perché io non sono al freddo. Sì, e comunque sì, esatto, sicuramente anche quelli che sono al freddo, perché meno 6 non spaventa nessuno. No, meno 6, stadio vuoto, una cornice abbastanza deprimente, sì, devo però, dire, insomma, trattandosi di Champions League. No, ma comunque la Roma deve fare un risultato. Sotto la neve, neve in partite terribili, è così bella la città che poi passa tutto. Sì, Roma che deve fare il risultato, questo lo sappiamo, stando attenta a quello che succederà in Manchester City, Bayern di Monaco, addirittura potrebbe passare il turno stasera. Sì, certo. Se il risultato sull'altro campo dovesse dire nemmeno così improbabile, cioè no. Non è una roba proprio. No, potrebbe succedere. Non ha addosso la pressione che ha addosso la Juventus, perché è evidente che il discorso è diverso per le due. Certo che Garcia deve immaginarsi le formazioni, deve immaginarsi qualcosa. L'ultima è quella di Nainggolan, terzino destro, dopo che Maicon ha rifiutato la convocazione. Sì, io stavo pensando, allora, uno, il problema alla Roma è questa della formazione del terzino destro e anche del terzino sinistro, che ci sarà, ma comunque esiste, questo problema c'è, ma soprattutto la Roma deve dimenticare la partita d'andata, che fu una partita occasionale e irripetibile, come è irripetibile poi è stata la partita con il Bayern. La Roma si è trovata al centro di due casi clamorosi, ma non deve essere la Roma che ha giocato a Bergamo, perché sicuramente non basta. A livello europeo, nonostante i russi non siano una squadra di marziani o di giocatori velocissimi oppure di grande corsa, perché i russi sono tradizionalmente un po' lenti, un po' tranquilli, però in campo europeo bisogna correre di più di quanto non abbia corso la Roma a Bergamo. Non lo so se ne ha. Ma non lo so, non so se ne ha, perché Io dico la verità, Bergamo non è che mi sia piaciuta molto la Roma sicuramente, però alla fine è stata una vittoria abbastanza tranquilla, cioè tolto lo shock del gol e della traversa nei primi minuti, poi la Roma è stata comunque capace con dei colpi di mettere la partita in discesa. Al secondo tempo non è stato brillante sicuramente, ma non è stato neanche così clamorosamente negativo secondo me a livello di occasioni concesse agli avversari, per cui non lo so, io sono dell'idea che comunque non bisogna essere schiavi del risultato come nel famoso striscione, quindi bisogna guardare il gioco, però il risultato qualcosa in qualche modo racconta. Oggi è un test decisivo, certo il CSKA che abbiamo visto nella prima partita del girone è una squadra che la Roma dovrebbe battere con grande facilità, ma nel mezzo c'è stato il Manchester City e ha dimostrato che i russi purtroppo per la Roma non sono agevoli. No, ma il momento è chiaro che è il momento della resistenza questo, Roberto, per la Roma, per Garcia. Sì, è il momento di stare molto attento, perché ha ragione Pardo, il risultato conta, il risultato non è mai casuale, e che vuol dire? Che l'Atalanta ha sbagliato i gol, però e non basta quella Roma. Io sono convinto che la Roma questa sera giocherà molto meglio, cioè questa sera, tra poco giocherà molto meglio, perché sa bene che in Champions è un altro mondo, è un altro calcio, e sa anche che questa è l'occasione, perché se vinci, non ti dico che sei in paradiso, ma quasi, e se pareggi è molto probabile che tu lo possa essere, ma deve fare grande attenzione a Musa, per esempio, che giocherà dalla parte dove la Roma non ha il terzino, e sì. Attenzione a Dumbia, perché la Roma ha Manolas che è uno rapido, ma Story per esempio mi sembra un po' meno rapido, e Dumbia è un centravanti di corsa, e dopodiché loro hanno i loro limiti dietro, e lì la Roma ovviamente non può fare solo una partita difensiva, deve andare a far male lì. La Roma rispetto all'anno scorso ha una quantità di infortuni pesantissima. Secondo te può permettersi la Roma, secondo voi, di giocare in difesa al calciomercato di gennaio? Secondo me qualcosa deve fare, perché fino a questo momento la campagna acquisti per una volta non è stata brillante. Insomma, la Roma ha fatto negli ultimi anni, Sabatini rimane un genio, secondo me è riuscito a fare delle operazioni eccezionali, però nel momento nel quale dico che Sabatini rimane un genio, Sabatini ha fatto una scommessa per un giocatore come Iturb, che fino a questo momento quella scommessa lì, per quanto è stata pesante, non l'ha ancora fatta fruttare, quindi insomma questo è un tema. Ha fatto una scommessa su Cole e sulla sua capacità di essere ancora un giocatore capace di dare molto, e sta avendo mille problemi. Altre cose hanno funzionato di più di quello che ci si poteva aspettare, tipo Manolas e tipo Yang Ambiwa, che adesso ovviamente è infortunato, però comunque l'opzione migliore, che è Castan, sappiamo che in questo momento, e gli facciamo per l'ennesima volta in bocca al lupo, ha altre cose a cui pensare, per cui davvero non è facile secondo me, se vuoi guardare questo famoso bicchiere mezzo pieno, anzi mi verso anche un po' d'acqua. Ma mentre c'è un SMS che Roma, dice comunque tangenziale nord libera un par di palle, Gianmarco scrive, tu hai detto tangenziale nord libera, magari nei 10 minuti, e qui il traffico è live. Comunque no, dico, se guardiamo tutto sommato la situazione in classifica sia in campionato che in Champions, secondo me la Roma può sorridere, perché avere 28 punti, essere a meno 3 dalla vetta della classifica, con tutti i problemi che ha avuto, però sicuramente a gennaio non può giocare in difesa nel mercato. Pensa anche tu così, Roberto, di cosa ha bisogno la Roma? La Roma ha bisogno di quello che sapevamo anche in estate, aveva bisogno di un grande centravanti di classe internazionale, magari quei soldi da spendere al posto che per i turni da spendere per il grande centravanti. Lui o anche Martinez, però insomma ci sono in giro persone, centravanti che costano, però anche i turbe costa. C'era bisogno di qualcuno che potesse garantire Maicon, perché non sapevamo Maicon come sarebbe andato dopo i mondiali, c'era bisogno di un terzino sinistro. Cioè, sì. Questo ce lo diciamo dai tempi di Rise, la Roma non ha più un terzino sinistro da allora, e non riesce a seccarlo, non c'è niente da fare, non riescono a trovare un terzino. Io penso che la Roma investirà se passerà il turno, come mi auguro. Te lo stavo dicendo io, anche perché fino adesso ne ha già presi 28, leggevo lo specchietto sulla Gazzetta dello Sport sul grano già racimolato da Juventus e Roma. La Roma ne ha già presi 28, la Juventus 32, un altro paio, stiamo parlando di milioni di euro, arriveranno nelle prossime due partite, e passando il turno è chiaro che il tassametro continuerebbe a correre, no? Ma assolutamente, è molto triste, ma credo che l'importanza delle prossime due partite, delle prossime due giornate per la qualificazione Champions League per Roma e Juve sia legata più a un discorso strettamente economico di passaggio del turno, la possibilità di guadagnare 10-15 milioni che la possibilità di arrivare fino in fondo. Spero di sbagliarmi, sarei la Champions è... se il calcio è liquido la Champions è ancora più liquida, però è vero liquido, scrive Paolo da Prato. Esatto, però è vero che ci sono due o tre squadre che sembrano veramente di un altro pianeta e quindi insomma bisogna andare avanti per fare soldi, per fare cassa, per fare ranking, per fare autostima, ma l'idea che la Roma o la Juve possano vincere la Champions League ad oggi fine novembre qui, poi speriamo di sbagliarci per carità, però secondo me però cioè, i tempi del Porto di Mourinho o del Monaco che arriva in finale, abbiamo avuto Borussia Dortmund, abbiamo avuto l'Atletico Madrid, però i miracoli non sempre speriamo. Succedono. No, sarà interessante per chiudere con Roberto Renga dietro l'angolo al ritorno da Mosca, vedere l'Inter di Roberto Mancini all'Olimpico. Sì, l'Inter ha una settimana più tranquilla, no? Perché deve giocare in Europa League, che rispetto alla Champions è quasi un allenamento contro il Dnipro e in casa, quindi senza affrontare la trasferta, e Mancini avrà l'opportunità di lavorare e quindi di presentare una squadra un po' diversa rispetto a quella che abbiamo visto nel derby. Nel derby io sinceramente ho visto la squadra di Mazzarri con la difesa 4, per il resto non i giocatori che non sapevano cosa fare con Kovacic a sinistra, però è normale, sarebbe stato clamoroso il contrario. Già a Roma secondo me deve fare qualcosa di più, perché se comincia con un pareggio incolore nel derby e poi becca a Roma, e secondo me vengono fuori problemi pure per Mancini. Ma secondo me adesso ha un tale credito, la gente dell'Inter si sente talmente liberata. Roberto, prima di salutarti c'è Paolo su Twitter che ti chiede un pronostico su stasera. 1-1. Lo stesso del nostro ascoltatore. Guarda, infatti un po' l'avevo letto e questo sapevo di farlo contento. È il signor Paolo Renga, parente. No, parente. Voglio dire, sono d'accordissimo assolutamente sulla settimana dell'Inter, che è un po' più semplice, anche se poi aveva ricordato che l'Inter gioca giovedì in Europa League. Sicuramente il fatto di giocare in casa è un aiuta. Vantaggio. Deve chiudere il conto in Europa League, per poi alla fine secondo me le differenze si elidono. Tra l'altro la Roma ha scelto una trasferta lunga, è partita domenica, tornerà soltanto mercoledì, proprio evidentemente perché questa è una partita importante dal punto di vista logistico, dal punto di vista ambientale, molto complessa rispetto a chiaramente al clima che c'è a Roma, e quindi bisognava prepararla in un certo modo. Certo, Roma-Inter è uno snodo importante, io credo, per tutte e due le squadre, ma insomma sarà una partita nella quale necessariamente l'Inter qualcosa in più dovrà farci vedere. Sono d'accordissimo, insomma è cambiata la difesa l'altro giorno, però non ho visto un segno di discontinuità così forte, nemmeno io. Roberto Renga, già che ci sei, pronostico anche sulla Juve domani, salvo neve. Se un altro pareggio, perché vincere a Malmö è sempre difficilissimo. Io vedi perdere non benissimo, non so che non va bene. Senti, siccome sono ottimista dico 1-0 per la Juve, dai. Stiamo su 1-0 per la Juve, dai. Grazie Roberto. Gol al 93esimo di Renga, di testa, al 93esimo ha sbloccato la situazione. No, la Juve non ha veramente alternative, insomma, la Juve deve vincere. Quel malaugurato, terribile rigore sbagliato all'ultimo minuto rende più complicata la situazione del girone, bisogna vincere. Però insomma la Juve, come del resto della Roma, è padrona del suo destino. Malmo ci ha appeso un cartello fallimento sulla porta di sposta. No, se non dovesse andare, certo. Però la è quella. Io l'ho vista veramente bene l'altra sera. Adesso siamo tutti bolliti, siamo tutti. Insomma, la Lazio varrà il Malmo? La Lazio vale il Malmo, almeno dico, certamente. Non lo so. No, ma poi nel calcio non c'è la proprietà transitiva, questo è evidente. Però 7-0 col Parma, 3-0 all'Olimpico, cioè in condizioni migliori di queste, anche giocatori recuperati in condizioni migliori di queste, la Juventus onestamente a questa trasferta svedese non poteva arrivare. Ci fermiamo adesso, sì, c'è la borsa. 800 24 00 24, numero verde, a dopo. Lui è tra i primi 5 italiani di tutti i tempi, forse gli faccio un torto. Infatti aspettiamo l'istituzione della pallone d'oro alla carriera, perché credo che se lo meriti. Poi si farà uno studio circa l'attività sua, come è stata, come si è sviluppata. Penso che qualcuno gli darà un riconoscimento simile. Convocati. Beh. Ciao Ilaria. Un pochino palla a Matano, se ne ho messa. Ho voluto unire due forze che sono simili: cinema, calcio, cultura. E questo è il sale della vita. Forza Sampdoria. Ne la faccio più. Questo stavo dicendo proprio perché saluto e li voglio bene. Sì. Al signor Zamparini, Crozza a lui non lo potrà fare mai perché è vintage. Capisce di calcio, uno scicchettoso. Si mette quei bei gironi. Io sono una povera new entry, però Crozza fa a me e il Papa. Poi chi fa? Marzulli, anche Briatore, Napolitano. Napolitano, fai grandi italiani. Viva Crozza! La Samp ha rubato, per così dire, due punti alla Roma. Rubato, ha tolto due punti alla Roma. Ma perché Venditti canta un mondo dei ladri, ma ora da collare. Ha tolto due punti alla Roma. Non ha rubato niente. Tolto due punti alla Roma, meritati. La Roma è stata fortunata perché se entra il gato Cagone è finita. Cagone, parito. Beh, Cagone è bellissimo. Cagone. Lo dite al numero uno. Un coso? Il numero uno. Ve l'ho già detto, l'Odito ve l'ho già dichiarato. L'ho già detto, se volete ve lo ripeto. Se c'è un funerale vuole fare il morto. Se c'è un matrimonio va a fare la sposa. No, sposa. Perché è più importante. Certo. Ma io non posso dire la verità. Ringrazio tutti, ma non è che me ne frega niente e me salto, capito? Non dico il presidente. Io sono così. Sono presidente, guarda qua. Che sono sempre stato presidente, guarda, lui lo sa, c'ho questo da 20 anni, vedi? Come no? Lui lo può testimoniare, perché sono presidente di me, capito? Io sono il mio presidente. E qual è il presidente? E oggi ho l'onore di essere il presidente di una grande squadra che ogni tanto, capito, sono generosi e regalano qualche punto a quelli poveri, come ieri che abbiamo perso pareggiato, e mi dispiace perché Sinisa si è proprio incazzato e ha fatto bene. Senti, ma quanto vuole di ingaggio Ferrero per partecipare a una serata? No, perché penso in questo momento sia il più straordinario comico del panorama italiano. Sì, devo dire che l'imitazione di Crozza, che è divertentissima, ma è certe volte è meglio lui dal vivo. No, infatti, è un errore di Crozza imitare Ferrero, perché Ferrero è supera l'imitazione. Sì. Beh, vabbè, però molto più anche Crozza. No, non lo so, io ti dico che non so come sarà, come andrà a finire, perché insomma non lo so. Ma a microfoni spenti è così? Sì. È così. Uguale. Cioè non ci fa. Uguale. Beh, almeno per quello che vedo io, ci fa sempre, e allora però a microfoni spenti è uguale. Insomma, ieri tra l'altro siamo andati poi tutti a cena insieme con Zenga, con Brocchi, con Staffelli, che credo abbia consegnato il tapiro, e proprio a Ferrero, ed è venuto per cena con noi, insomma, e quindi alla fine mi sembra una persona che è così, insomma, sia dentro che fuori, sia davanti alle telecamere che in privato. Poi non so se sarà un grande presidente, se sarà un buon presidente, se sarà un pessimo, questo non lo sa nessuno. Detto questo, però, comunque poi quella che Zamparini mi ha detto che ho culo, si alza in piedi e fa vedere. Sì, no, ci sono delle cose che io onestamente non farei. Poi alla fine uno, facendo un discorso un po' più filosofico, dice vabbè, ma e che sarà mai? No, nel senso che secondo me questa capacità di giocare, di non prendersi troppo sul serio, è una cosa in assoluto positiva. E mi sembra che i riscontri del pubblico, non sono Mannheim o Piepoli, però mi sembra che i riscontri del pubblico siano molto positivi nei suoi confronti. Sì. Al prossimo giro chiama anche Pozzecco, così uno fa vedere i pantaloni, l'altro si strappa la camicia. Ferrero Pozzecco potrebbe essere una coppia irresistibile. Tweet di Johnny: scusate, sono rientrato da poco in Italia, volevo sapere se è ufficiale Pardo all'Isola dei Famosi. Sì, è ufficiale. È ufficiale? Ma che ufficiale? Ufficiale? Ma non è ufficiale, ma non ho mai parlato dell'Isola dei Famosi con nessuno, e ribadisco, ci andrei soltanto a fare il concorrente per dimagrire, ma non sono abbastanza famoso, quindi comunque continua a girare la voce per cui Pardo potrebbe essere inviato all'Isola dei Famosi. Sai le voci che girano? Sì. Spesso ci beccano? Sì, in fondo spesso, di verità c'è quasi sempre. No. Non lo so, nemmeno nessuno mi ha contattato e vorrei fare anche Anch'io voglio essere ottimista, scrive Stefano da Udine, spero che la Juve perda 2-0, viva i gufi. Eccola. C'è anche una domanda per me, ma non possiamo C'è una domanda. C'è uno che quella è l'ultima. Ah, no, non si può dire. Come no, non si può dire. Riguarda una abitudine del tuo salotto del lunedì sera. Ottavio Milano, buongiorno. 800 24 00 24, ricordo il numero certamente. Buongiorno Ottavio, dica. Buongiorno, allora intanto volevo esprimere il mio apprezzamento per la trasmissione, che è veramente fatta molto bene. Io sono un moderato tifoso milanista, ma stasera, vabbè, tipo per chiaramente la Roma e tipo anche domani per la Juventus, perché il ranking UEFA piange e ha bisogno di essere rimpolpato. Sì. Senta, una domanda del CERT, una domanda. Quindi un tifoso del ranking UEFA. Del Parma, che secondo me è schizofrenica, perché è passato dal preliminare di Europa League, poi non disputato per dei problemi. Per gli stessi tutti, problemi, per il è una retrocessione che insomma si sta materializzando nel giro di questi momenti, no? E d'altra parte nelle sue sessioni di calcio mercato movimenta qualcosa come 107-108 giocatori tra prestiti, con proprietà, vero, partecipazioni, vero, vero, ma infatti no? Il Parma sta pagando proprio questo, il Parma sta pagando proprio questo, e i problemi che sono emersi in maniera vistosissima ora erano poi gli stessi che hanno tenuto il Parma fuori dall'Europa, no, Pierluigi? Io non vedo grandissime vie di uscita per il Parma. No, dal punto di vista tecnico le vie di uscita ci sono. Tecnico, il campionato, però il campionato. Se non paghi i giocatori. No, certo, quello, il problema vero è quello. Il problema è chiaramente di natura strettamente aziendale. Dal punto di vista tecnico, ribadisco, secondo me il campionato è lungo, certamente il Parma non farà una grande stagione. Però non è detto che debba retrocedere per forza, insomma la situazione in classifica è grave, ma non è ancora disperata, manca tantissimo tempo e magari riassestandosi un po' potrebbe trovare delle risposte. È chiaro però che se la società non riesce a ricompattarsi, a dare una serie di garanzie minime ai giocatori, diventa più complicato. Anche l'ambiente è di questo, certo, tipo. Sentiamo. Arrivate sabato sul Parma, insomma è una situazione senza grandi vie d'uscita questa. Volevo farti notare una, sempre rimanendo in Russia, poi andiamo sulla Juventus, una cosa di Panucci. Hai letto quella cosa? Sì, hai letto sul capello. Sul capello? Sì. Allora, la tocca piano. L'ha toccata Panucci pianissimo. Innanzitutto la cronaca dice che a capello dovranno pagare. L'ispettorato del lavoro russo ha detto che l'unione calcistica dovrà pagare capello e non ci sono santi, gli devono 3,2 milioni di euro di arretrati. Domanda a Panucci: eppure il CT è suo amico, non ha potuto aiutarla? Come sappiamo Panucci era sì, collaboratore di capello, il contratto era scaduto, non è stato rinnovato, anche lui non ha preso i soldi. Risposta: senta, io lo ringrazio per l'opportunità che mi ha dato, ma si è comportato in modo vergognoso con me e con tutto lo staff italiano. Glielo dirò in faccia la prima volta che lo vedrò. Un grande allenatore dovrebbe difendere i suoi uomini. Nella stessa situazione, ricordiamo, c'era anche il preparatore Neri e lui non lo ha fatto. Forse non sono più così amici. No, direi di no. Diciamo dopo stamattina, dopo questa intervista, sicuramente no. No, fa abbastanza ridere, glielo dirò appena lo vedo. Chiamalo. L'avrà chiamato prima dell'uscita del giornale, però insomma non so veramente che dirti, sono questioni loro, insomma, sì, di soldi, di il concetto sicuramente che esprime Panucci è condivisibile. Un allenatore che ha uno staff dovrebbe fare tutto il possibile per aiutare lo staff, sì, questo in linea di principio è ovvio, però non sappiamo come sono andate le cose. Non sappiamo neanche esattamente risvolti la situazione. Renato da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per la convocazione. Grazie a lei, dica. Grazie, io sono milanista, volevo dire una cosa, ho visto il derby e ho visto Ramy sulla destra che mi è piaciuto molto. Volevo chiedere, non so se a Pardo lo sa, se è solo un esperimento o si potrà rivedere ancora Ramy sulla destra. Questa è una cosa. E poi volevo parlare della difficoltà delle squadre italiane in Europa, e io ho notato molto che le squadre anche non più blasonate europee comunque cercano di non buttare via il pallone anche quando sono in difficoltà, anche quando giocano contro la Juve, e poi vengono a pressare in alto molto le squadre. E noi invece, noi italiani, facciamo, non lo facciamo in Europa, secondo me questo sì. È la difficoltà. Vero. Senta, facciamo okay. così, rispondiamo dopo il traffico sì. Che sì. è già in linea. Me le segno, sì, sennò io ho scritto bollito. Ho fatto notaio. Vabbè, traffico. Ma che buongiorno, Allegri, Allegri. Tutti convocati. Quindi, allora, Okaka non parte, non c'ha cifra. Okaka è mio e me lo abbraccio forte forte. Okakone. No, no non è di specialità, è vero. Perché Cassano. Cassano, quando lo incontro gli darò la mano. Perfetto. E questo è il mercato della Sampdoria, no? Sì, adesso al di là delle battute su Cassano, prima aveva detto Passano, Cassano andiamo piano piano. Suo caca ha chiuso, ha detto che sì. assolutamente neanche per 20 milioni di dollari, che poi non so così tanti, perché col no. cambio del dollaro adesso qua. Signor Barisoni, dov'è? Ma insomma, siamo sui 16 milioni, sì, credo. Sì, ecco. Sì. Ma non ha fatto la conversione, il concetto è che non lo vuole vendere. E Pazzini ha detto che l'ha incontrato, gli sembra un bravissimo ragazzo, ma è finita lì. Io non escludo nulla sul mercato della Samp, nel senso che poi è chiaro che ci saranno. Per esempio, io credo che la Roma, sinceramente, potrebbe anche provare a bussare a gennaio per Romagnoli. Sì. Perché con questa situazione di emergenza difensiva, io credo che lì insomma c'è un prestito. Dipenderà molto ovviamente anche dalla situazione in classifica che ci sarà a fine dicembre. No, avevamo quelle due risposte. Sì, allora, una su Rami. Rami a destra, nasce tutto. No? Non mi sembra che abbia il passo. Sì, però non ha il passo. Però insomma c'è stato questo problema di Alex nelle ore immediatamente precedenti al derby che ha chiamato per questa scelta. Io non lo escludo, anche perché poi Mexes comunque ha dato risposte. Insomma, quindi io credo che almeno per le prossime partite non sia un'ipotesi completamente da scartare. E la seconda cosa, invece, per quanto riguarda l'atteggiamento, sicuramente in Europa si tende a giocare un calcio un po' più propositivo. Sì, abbiamo un problema di intensità. Se con chiunque parli, il problema è che lo sappiamo e non riusciamo a risolverlo del tutto. Insomma, abbiamo anche un problema di qualità, ovviamente, perché i grandissimi giocatori difficilmente arrivano da noi, ma abbiamo soprattutto in questo momento un problema di intensità, forse legato anche a alcune caratteristiche arbitrali del nostro calcio. Si fischia tanto, la palla è partite molto, molto tattiche, sì. Questo ci porta a livello europeo spesso a prendere delle imbarcate proprio dal punto di vista del ritmo che è diverso. Intanto, per quanto riguarda il mercato e la Juventus, hai letto che Raiola è già in ufficio, no? Su Pogba. È il giocatore più caro del mondo. Posso dire una cosa? Se Raiola, cioè adesso sinceramente Raiola lo sappiamo, è un uomo spericolato. Agnelli ha avvisato mezzo. Sì, è un uomo abbastanza spericolato, lo sappiamo come strategia. In questo momento forse anche uno un po' più remissivo sarebbe spericolato avendo la procura di Pogba, nel senso che stiamo parlando di un giocatore che è incredibile. Poi dipenderà molto da lui, dalle motivazioni che avrà. È anche un assegno circolare che ha a disposizione la Juve, un giocatore che non avrebbe mai ceduto, ma che potresti cedere a delle cifre folli che ti fanno girare la testa. Quindi il punto di partenza rimane una clamorosa operazione di mercato fatta dalla Juve, sì. E una clamorosa ingenuità del Manchester United. Sai chi ha davvero mandato ai pazzi Mino Raiola? Cioè un ex giocatore che è davvero ormai ex, che mandò ai pazzi Mino Raiola, che si mise a sbraitare come un ossesso, Pavel Nedved. Ah sì? Sì, perché quando la Juventus ha retrocesso in Serie B c'era Mourinho che lo voleva e ovviamente il bombino avrebbe preso un sacco di soldi e ne aveva detto: io mi ho chiesto di essere subito, voglio stare qua. E questo è diventato è impazzito. C'è anche la voce a proposito di Juventus e di Agnelli, sì. C'è anche la voce che vorrebbe Agnelli alla Ferrari. L'hai sentita anche tu? L'ho sentita. Vabbè, insomma, ma ce n'è un'altra che dice che invece non è vero, perché Agnelli ha ben chiari due obiettivi: pareggio del bilancio con la Juventus e una Champions League. Il secondo mi sembra più difficile, molto più difficile da realizzare. Però insomma, comunque sì, insomma è una fase abbastanza turbolenta in Ferrari, quindi chi facciamo? Andiamo Marco, per cavalleria, non volevi andare da Marlène? Ah, no, sì, giusto. No. Marlène da Padova. Di cavalleria Marco e Giulio dopo. La signorina Marlène. No, buongiorno. Signor Marlène, sono un albanese, comunque vorrei grazie per avermi convocato. Innanzitutto non ci preoccupi. Allora, vorrei ringraziare il signor Pierluigi per aver mandato la verità della partita Serbia-Albania in onda, perché c'erano state molte polemiche che l'Albania ha fatto un gioco di politica, eccetera. Quando lui ha messo in onda si è visto tutto chiaro che non era così, non era l'Albania quella che ha provocato. Sì, e vorrei, sapere la vostra, il vostro pensiero per Zlatinovic, che ha dato ragione alla Serbia. Non so come. Beh, innanzitutto hai chiarito diverse volte che comunque quello è un filmato esplicativo, ma di parte, sì, no? Sì, quello è il filmato, memoria difensiva, era un filmato della memoria difensiva della Federazione Albanese. Poi chiaramente è un filmato comunque che ha delle evidenze abbastanza precise del clima di intimidazione di una partita che non si poteva giocare in quel clima lì. E come dice De Biasi, c'è da chiedersi cosa sarebbe successo se l'Albania avesse segnato in quelle due occasioni che ha avuto sullo 0-0 prima della sospensione del match. E io penso che l'Albania sia parte lesa di questa storia, sì. lo dico sinceramente, nel senso che finché non viene appurata in maniera univoca che la provocazione grave sicuramente, insomma, del drone fosse stata diciamo responsabilità diretta di qualcuno, certo, della Federazione Albanese o dintorni, è difficile, insomma, è difficile. Finché non si stabilisce la verità su quello, francamente la squadra di Biasi mi sembra che abbia poche colpe. Il clima è brutto, ripeto però in assoluto quello che dico sempre in queste situazioni qui: siamo di fronte a una situazione che col calcio c'entra poco. Siamo, certo, di fronte... noi viaggiamo spesso, ma in Europa la situazione non è messa bene. Stasera a Mosca si gioca a porte chiuse per gli incidenti che i tifosi russi hanno provocato a Roma. L'altro giorno c'è stato un tifoso, passando al basket, un tifoso della Stella Rossa, ucciso a Istanbul, a margine di Galatasaray, Stella Rossa. Quindi è assolutamente, ripeto, è una storia. Io ho un profondo rispetto per quei popoli lì, per tutti, perché credo, e lo ribadisco, che la violenza che hanno vissuto porta a porta loro in quegli anni è qualcosa che fortunatamente a noi italiani, almeno complessivamente, a parte rare eccezioni, è stata grazie a Dio negata. Quindi credo che ci debba essere grande rispetto per quello. È ovvio che una partita come Serbia-Albania, forse, anzi senza forse, non ci sono ancora le condizioni per poterla giocare soprattutto col pubblico, e non so quando si verificheranno queste condizioni. Marco Milano, buongiorno. Marco da Milano, magari Marco da Milano, giornalista dell'Espresso. No. E intanto c'è una richiesta, ci dicono 14:30, si parte tra poco. No, per favore. È un antico gioco. Oggi grandi antichi esterni miti. Radio 24, siamo antichi a matching. fiera match and grow, di match and grow. No, c'è un, cioè, altro mescolare e crescere. Sì, importanti. Tu hai la gioia nel tuo cuore, come mica devi far esplodere. No, poi vorrei parlare anche di un altro argomento. Dopo le scommesse, Black Corner, GR, eccetera, arriverà Filippo Maria Ricci. Un altro argomento che mi intriga è quello del vice dell'Inter. Nei giorni scorsi è stato fatto il nome di Carles Puyol, poi ipotesi fumata. Questa è una bella idea di Mancini. Sì, fra l'altro adesso magari Walter si arrabbierà, non ci andrebbe mai, ma ieri sera mi sono dimenticato di chiederglielo. A un certo punto quasi quasi poteva andare a fare lui il vice di Mancini, visto che i rapporti fra i due sono ottimi e la voglia di Inter che ha lui, ma chiaramente non è così. Zeng è un capo allenatore, non è un vice allenatore. Sì, insomma, quella cosa lì dovrà essere risolta. Mi sembra francamente un dettaglio importante, ovviamente poi nell'organizzazione del lavoro all'Inter, ma insomma onestamente... Però non sarebbe stata male, non era male l'idea di Puyol. Poi è un'ipotesi che non si è potuta concretizzare per ragioni contrattuali. Puyol è sotto contratto con il Barcellona, sta facendo un corso per dirigenti a Barcellona, quindi non si è potuto liberare, ma era veramente intrigato. Tra l'altro Puyol, qualcuno... Puyol è un innamorato di Milan in realtà più che di Inter, no? Lui ha sempre, anche in un'intervista a me, ma varie volte ha raccontato di avere una passione rossonera, però credo che sia una passione comunque in generale per il calcio e per il calcio italiano, quindi magari potrebbe anche fare un'eccezione, essere intrigato. Ci fermiamo perché fra poco c'è il GR, giusto? Poi torniamo intorno alle 5 minuti. 10, facciamo 10. Hai tempo per un panino se vuoi. Già l'ho mangiato. Ah, già fatto. L'ho mangiato in 6. Quindi adesso due panini. Grandissimo, finisco obeso. 800 24 0024. Vi aspettiamo. Quote e pronostici. Torna la Champions League e per la Roma di Garcia c'è la temibile trasferta nella Gelo di Mosca contro il CSKA. Gara questa che comincia alle ore 18. Vediamo dunque assieme le quote SNAI per questa partita. L'1, la vittoria della CSKA, è quotata a 2,75. L'X è a 3,40. Il 2 invece, con il successo dei giallorossi che sono favoriti, è quotato 2,45. Interessante la quota del gol a 1,68. Molto alta la quota del no gol, quotata 2,07. Alle 20,45, sempre nel girone dei giallorossi, giallorossi di scena Manchester City Bayern Monaco 1-3.60, XA 3.85, 2 invece con una vittoria del favorito Bayern a 1.90. Interessante anche la gara di Gelsenkirchen tra Schalke e Chelsea 1-4.50, XA 3.65, 2 invece con la vittoria degli uomini di Mourinho quotata 1.75. Chiudiamo con la gara del Parco dei Principi tra Paris Saint Germain e Ajax 1 quotato 1.33, XA 5, 2 invece con la vittoria dei Lancieri quotata 9.50. Questa era l'ultima delle quote snelle di oggi, noi ci risentiamo domani. Tutti convocati. 14.30, si parte tra poco, inizia la sfida, ma è solo un gioco. Folla ai cancelli e spalti gremiti, per un gioco antico con moderni miti. Tripudio di cori, bandieri e vessilli. Non ce la faccio più, cioè veramente mi volete un gioco antico, di moderni miti, guarda, si è creato il panico qua fuori. Sì, ma hanno ragione. No, sono certo, e lui è il mio amore, l'effetto dopo. C'ho l'effetto del terreno, come io in cuffia sento il mio eco, basta che non vada in onda. Ecco, adesso. Adesso bravo, meglio. Ma preferirei sentir parlare cinese che questa. Il signor questa. Carlo Dragonetti, lo sai che lui è stato in Cina, è un calciatore emergente. Quanti anni hai, Carlo? Ho 21 anni. 21 anni, alza, avvicinati il microfono. Adesso abbiamo reclutato un ospite qui a Metz. Sì, tu sei oggi sei qui con il Ministero dello Sviluppo Economico. Sì, sto con il signor Padoan. Esatto. Sta lavorando. Sta lavorando. Per lui. Sì, per lui. Certo. Lavoriamo per Padoan e per il paese. Insomma, in generale, che cosa fate? Fate incrociate. Stiamo cercando di far incontrare le aziende italiane con dei buyer esteri. I buyer. Buyers. Non Leverkusen, eh? No. Buyers. Cercando di creare dei nuovi rapporti tra. Senti, sai che la Cina è un mercato emergente anche nel calcio. Allora, per esempio, adesso Cannavaro, che va a fare l'allenatore, deve dire forza ragazzi, come dice? Dice Cici. Ma possiamo andare a chiamare Cannavaro o Lippi? Proviamo a chiamare Cannavaro o Lippi, vediamo se ci rispondono. Sanno qualcosa di cinese, no? Perché tu andresti in Cina a fare l'assistente di Cannavaro, traduttore interprete? Sì, certo, sarebbe una bella possibilità. Ecco, per esempio dire pressiamo, come si dirà? Lessipi. No, si dice Ichizo. Ichizo. Tendenzialmente sarebbe corriamo assieme, cioè pressiamo. Ah, Ichizo. Perché ICI è insieme, che in Italia è un'altra cosa l'ICI, però insomma c'è ancora l'ICI di IMU, vabbè, è un'altra cosa, insieme, zoo, corriamo. Zoo, camminare, correre, sì. Camminare si dice zoo. Allora, camminare zoo. Ah. Zoo. Correre? Zoo. Correre è Wanchenzhou. Wanchenzhou, perché è più veloce. Wanchenzhou. Invece camminare zoo. Quasi quasi preferivo la poesia. 14 di moderni miti. C'è il numero, lo vuoi provare che stai chiamando? Felice da Trani, buongiorno. Vai, vai. 800240024, buongiorno Felice. Pronto? È di Trani, è Dragonetti di Trani. Carrambata totale. Ciao Felice, buonasera. Sì. Buonasera. Dica. Niente, dicevo che la poesia è carina, non è brutta. Poesia carina, sì. Sì, ma infatti fa piace. Infatti, ogni tanto fa bene ascoltarla. Sì. Niente, sei l'autore. Volevo fare in bocca al lupo alla Roma per stasera. Sì. Anche se io sono juventino. Quindi non fa il gufo? No. No, io gufo solo gli innominabili. Gli innominabili sarebbero? Sarebbero quelli con la maglia blu e nera. Ho capito. Ranking UEFA fino a un certo punto, quando non giocano gli innominabili. Solo loro, poi per il resto non ce l'ho con nessuno. E spero che stasera vincano e che vadano avanti. Sì. Anche perché se lo meritano per quello che hanno fatto. Sì. Ma certamente. E poi al signor Pardo gli volevo. Sì. Gli volevo augurare di venire presto di nuovo in Puglia, perché lui è di buona forchetta e fa piacere avere persone come voi. Io guardi, se c'è da quel punto di vista non temo rivali, partirei anche subito. Forse vengo prima di Natale a fare una cosa. No, mi piace sempre. Vi mettete d'accordo se passi? Mi piace sempre. Sì, anche perché visto che Itis non ha voluto far mangiare gli orecchietti ai suoi giocatori, io consiglio a Pardo di mangiare con le braciole perché sono buonissime. No, fra l'altro Hiddink consigliato di non mangiare l'orecchietta, andrà malissimo l'Olanda in quella partita, quindi la dimostrazione che anche quelle dopo l'orecchietta aiuta, sì, e sta faticando tanto. Così Hiddink è un grande allenatore, gli voglio proprio bene, però insomma sulle orecchiette io non ho capito come si dice orecchiette in cinese, non ci sono le orecchiette, temo non ci siamo, la pasta non lo sa, vedi pure Felice la Trani vuole parlare cinese, in tranese so come si dicono le orecchiette, si dice No. Sono due tipi diversi, cioè c'è una preparazione diversa, perché le strascinate c'hanno il pollice nell'orecchietta e si spinge sul tavolo. Cioè lui è interprete di tutto, capito? È di Trani, sì, parla sì, milanese, certo. E comincia a fare la strascinate, in cucina. Quindi, le strascinate sono strascinati, come le strascinate. Le orecchiette, o meglio le orecchiette, sì, sono orecchiette, cioè orecchiette. Un orecchio piccolo. Piccolo orecchio. Cioè, piccolo orecchio. Cosa differenza... risponde il signor Felice? D'accordo? È convinto? Non ho capito. Vabbè, un'altra volta. Comunque 14:30, ricomincia il gioco. Grazie Felice. Per grazie, così poco. Grazie. Moderni grazie, miti. Grazie, Paolo grazie, da Padova, grazie. Paolo da Padova, Paolo, il signor Paolo. Buongiorno. Buongiorno. Ora, io volevo dirle che farò un tifo sfrenato per la Roma affinché possa vincere e passare il turno. Sì. Domani ovviamente gufferò contro la Juve. Sì. Bandiera del marmo sul balcone. Tutti tranne che la Juve. Infatti quando la Juve ha perso la finale di Coppa dei Campioni col Milan a Manchester ha fatto i caroselli. Ha goduto pazzamente. Quindi, pur essendo di fede cosa? No, per milanista. Me possono vincere tutte tranne no, possono vincere quindi, tutte tranne quindi che la Juve. È un professionista del tifo del contro. Tifo ci sta tutto. Del tifo contro la Juve. Professionista del tipo contro Dragonetti, tu sei tifoso del Guangzhou? Certo, sì, sì. Del Pechino, a dir la verità. Ah, sì? Sì. Pechino Express? No, Pechino. Su Rai 2, sì. No, Pechino com'è? Pechino Hohai. Hohai, che vuol dire? Hohai è un posto di Pechino, nel centro di Pechino, sì. Non vuol dire tipo atletico? No. Atletico Pechino? No, Sporting no. Pechino? Purtroppo no, sebbene sia difensore come si dice? Questo non lo so. Non lo sai. Questo è grave. Adesso lo cerco. Attaccata a 32 cerchi. Non sai i ruoli. Non è ancora pronto. Preparati, per l'esperienza in Cadavaro. Salutiamo intanto le ragazze. Andrea Modena, buongiorno. Buon pomeriggio a tutti, grazie per la convocazione. Grazie a lei. Ciao. Io vorrei uscire un po' dal discorso che fate giustamente sugli eventi internazionali, ma volevo sottolineare una cosa che non sento in giro tanto, fare complimenti al Carpi FC, prime classifiche in Serie B, che è un gran momento per la squadra, insomma, per il mister Castore, ex Cesena, e una piccolissima realtà che però sta facendo molto bene. Beh, il calcio italiano ogni tanto è capace di raccontare anche delle belle favole, no? Non, assolutamente. Non è poi, prima, per fortuna, poi spesso si parla e si abusa della parola miracolo, invece in realtà poi spesso c'è grande programmazione. La B poi da questo punto di vista è un campionato che può regalare veramente grandi. È una categoria difficilissima la Serie B, perché le differenze tecniche ci sono, ma spesso vengono compensate da altre qualità, che sono appunto la dedizione, lo spirito di squadra, il fattore campo. Ci sono alcuni posti dove sarebbe da morire. Vedere le squadre B dei club di Serie A in Serie B, in Lega Pro, mi piacerebbe vedere questi giocare con i grandi. Cosa che però non mi risulta sia quello che succede in Spagna con il signor Ricci. Vamos da Ricci. Eccolo qua. Ciao Filippo. Buon pomeriggio. Come stai? Che passa? Stiamo qui aspettando di andare al Calderon a sentire che c'è il solo. Bueno, tenemos un partidazo, ¿eh? Tenemos el partidazo entre los griegos del Olympiacos y español. Bueno. C'è l'allenatore, senti. Mille giocatori spagnoli, portiere dell'Atletico. Sì. Roberto. Senti. Roberto, il signor Roberto. Tema della settimana, del weekend, Messi che fa tripletta, che entra totalmente nella storia. Aude, possiamo dire che è il Di Natale del Barcellona, no? Sì, senza nulla togliere a Di Natale. Senza nulla togliere a Di Natale, naturalmente. Chiaramente, no? Sì, esatto. Stasera batte togliere anche il record a Raul, dai, anche se a Cipro non è facile segnare, però Sono tutti a 71, lui, Ronaldo e Raul. Avremo questa storia di Messi e Ronaldo in Champions a lungo, a occhio. Senti, ma Ancelotti rinnova? Sì, rinnova. Ma così dicono, sì, sì, ma 9 milioni? Ma non lo so, girano queste cifre, però su queste cifre io non sono mai del tutto convinto. Così. Come si dice in cinese 9 milioni? No, adesso mi sento. Non lo sapevo. Perché lo sa pure Ricci? Pure Ricci parla cinese. La numerazione in cinese è particolare. Sì, ho capito, però adesso c'è. No, si dice Joe Archie Tien. Joe Archie Tien. Joe è 9. Archie Tien è milioni. Sta succedendo? Sì, che siamo qui. Non ti preoccupare, hai ragione. Filippo. Ma pure tu sei cinese? Ti sentivo. Sì, io no, io lo sapevo, poi l'ho perso. No, come sapevi il cinese, Ricci? No, raccontaci questa storia. Ma figurati, dai. No, può essere, Ricci è un uomo di mille risorse, sì, grande esperto d'Africa. Rimango su lingue così più normali. Filippo, ma tornando a Messi, come si chiama quel giornalista che l'altro giorno ha dichiarato in televisione che Messi prima o poi finirà al Napoli portato da una nuova cordata di investitori? Allora, non l'ho neanche sentito, però da quello che mi dici potrebbe essere questo mitico Gagliardo, non so, che è uno così, che non si chiama. Bravo, proprio lui, esatto. Proprio lui. Il rappresentante, sì, che sta nel... Molto serissimo, molto serio, eh? Sì, sì, serissimo, più o meno si avvera tra l'1 e il 2% di quello che dice. Però è Gagliardo, come diciamo noi a Roma, è Gagliardo. Esatto, come dice queste cose. Gagliardo lavora in una specie di processo post litteram, nel senso che è nato da 3 anni, gli spagnoli hanno scoperto questo tipo di trasmissione, sempre senza nulla togliere, come a Di Natale, al processo, hanno scoperto questa trasmissione in cui fanno finta di gridare così, ed sparano chi la spara più grossa. E niente, però sarebbe bellissimo, tutto questo, una bella cordata, il Napoli forte con Messi, viva Maradona, tutto a posto, magari, Sì, intanto clamoroso, allenatore del Pechino Guan è Gregorio Manzano, ex atletico. Oh, Goyo Manzano. Goyo Manzano, allenatore del Pechino Guan. Come si dice allenatore, lo sappiamo? Sui ruoli, allenatore si dice? Zu Xiao Dui. Confermi, Ricci? Ma sono tutti uguali. Chiaro, perché Zucciao è calcio, per questo. Ah, Zucciao. Dimmi, Filippo, raccontami quella... Sì, esatto. Però di Trani, il nostro amico Carlo Dragonetti, tra l'altro ha fatto un provino in Cina da calciatore, no? Sì, era una squadra di Serie B. Si chiama? Però è sempre una squadra di una delle tante squadre di Pechino. Come è andato? Si chiama Wuhan. È andato talmente bene che mi hanno detto di non andare. Niente, sì. Va bene. Peccato, forse per la lingua. Facciamo la lingua. Sì. Facciamo qualcosa in Spagna, magari. Circa 6.000 euro al mese in una Serie B. Ah, però. Sì. Al primo portiere, così che gli serviva. Ah, però. Mica male. Interessante. Tu facevi il portiere. Io sì, alla partita del cuore l'ho fatto. Partita del cuore. Allenatore Mondonico, ne abbiamo parlato diverse volte. Varie volte, sì. Filippo, mi racconti quell'altra storia che mi intrigava. Prima ne ho accennato con Pierluigi. Puyol contattato da Mancini per andare ad allenare l'Inter, poi non se ne è fatto niente. Ma lui era seriamente intenzionato a seguire. Puyol sta cercando. Diciamo la sua strada, è sempre stato molto milanista teoricamente, sì. Però gli piaceva Maldini, così, insomma, queste, sì. Però adesso in realtà lui lavora a Barcellona, lavora da una mano a Zubizarreta, però secondo me è una di queste anime che ancora non ha capito bene cosa vuol fare, per cui insomma sì, se una chiamata del genere sicuramente non viene presa in considerazione. Sbaglio o col Barça poteva finire un po' meglio? Cioè, è chiaro che sta lì nello staff. Quindi che il Barça adesso ci sta lavorando, lui lavora al Barça. Però, la risposta è sì, perché lascia sempre questa sensazione, soprattutto questa nuova dirigenza mi sembra incapace di gestire le relazioni e quindi tutto un po' farraginoso. Sì, se ti devo rispondere secco, si poteva finire meglio, però adesso sta lì, appunto non si capisce bene cosa faccia, perché sai, non è uno qualsiasi, non è che dici, è arrivato lì Oleguer, dice vabbè l'hai messo come no, cioè questo è un simbolo, la bandiera del Barcellona. Quindi sì, ci sta, che se dovesse una chiamata del genere sicuramente non è che mette giù il telefono e dice no, guarda, non mi interessa, però è tutto al Barcellona, potrebbe essere gestito meglio in questo momento. Anche la squadra, credo. Senti Filippo, volevo parlare con te per chiudere di Coppa d'Africa invece. l'altro giorno, vabbè, ho visto una delle scene più raccapriccianti che mi è mai capitato di vedere sul campo di calcio, cioè il finale di Costa d'Avorio Camerun. Sì, no? Una melina orrenda in un fazzoletto di campo con gli avversari, col Camerun che stava a guardare, perché naturalmente lo 0-0 conveniva a tutti e due. Mai stata una, per varie ragioni molto serie, non c'è mai stata un'edizione della Coppa d'Africa così tormentata. Sì, basti dire che il paese organizzatore era stato squalificato perché aveva fatto giocare un giocatore che non poteva giocare, quindi ha cominciato il torneo, l'hanno squalificato e si ritrova classificato come paese organizzatore. Conta che c'hanno quattro stadi, cioè no, devono giocare in quattro stadi perché sono 16 squadre, due c'erano, ci sono stato anch'io quando nel 2012 hanno fatto la Coppa a metà col Gabon, e va bene, due possono andare. Gli altri due sono in mezzo alla foresta, lontanissimi, non ci sono, cioè c'è una strada, non c'è modo di arrivare, non ci sono alberghi e via dicendo. Cioè, a me sembra un po' una follia, però è chiaro, lì c'è il dittatore, arriva il presidente della CAF, dice: tu che ne pensi? Sì, tutto a posto, via, andiamo. E volevano assolutamente farla. Certo, anche il Marocco, io lo capisco fino a un certo punto, perché loro dicono problema dell'Ebola. Allora, tifosi in trasferta alla Coppa d'Africa sono pochissimi, e quei pochi vengono quasi sempre dal Nord Africa perché hanno più soldi. Non vedo tifosi, c'è delle squadre, diciamo, dei paesi a rischio, si è qualificata solo la Guinea. E dove giocava la Guinea le partite in casa, visto che non le poteva fare giocare in Guinea perché era squalificato il cioè perché per problemi di Ebola, le giocava a Casablanca, in Marocco. Allora, scusa, dico, prima nelle qualificazioni la Guinea va bene e poi al torneo non va bene. Quindi non lo so, anche lì capisco la paura, però è un'edizione tormentatissima. Sì, rimane una follia, Il calcio africano dal punto di vista organizzativo. C'è un messaggio per Ricci, Un messaggio per Ricci. Su Twitter, signorina Erika, dice: Ricci mi ha convinta per anni di saper parlare francese. Abbiamo qualche notizia più di questa Erika? Non vorrei approfondire. Ma è arrivato forse? Infatti volevo capire un attimo chi è questa Erika. Può essere, non lo so, perché no, è Erika da solo. Io ho una nipote che si chiama Erika. Non so dirti se siamo al top oppure no. Grazie, Erika del mare? Sì, sì, è del mare. È sua nipote. È bello. È bello quando poi alla fine sono le grandi famiglie italiane che si ritrovano insieme. Certo, abbiamo. Senti, manda un bacio a Erika. Vai una dedica. No, sì. Che canzone vuoi dedicare a Erika? Lo preferisce da Carlo Genta. Ah sì, attenzione. Ah, io lo dico come si dice in spagnolo, lo lascio lì. Ciao Filippo. Ciao, invece, c'è un caso diplomatico che bisogna, perché ci scrivono. Non andare a fare l'inviato alla Coppa d'Africa. In cinese corre, non si dice Ikizu, ma in Pau. Ospite vostro deve imparare bene il cinese prima di insegnare. Hai qualcosa da dire, Dragonetti? Assolutamente sì, stavamo parlando di pressare, non di correre. Guardi. No, siamo in Radio 24, straordinario. Con questa mentalità ci proponiamo sui mercati internazionali. Ricordiamo che siamo qui alla fiera di RO di Milano per questa iniziativa Share and Grow. Cioè, condividi e cresci, e appunto abbiamo gli interpreti pazzesca Coppa d'Africa. Un controsenso totale. È una cosa che secondo me sfugge completamente alla logica, al buon senso del calendario internazionale. Veramente, da questo punto di vista, mi fa quasi tenerezza, in senso buono, nel senso che comunque è una cosa che si oppone completamente al corso degli eventi, al punto che chiaramente chi ha dei giocatori, per esempio. Caso della Roma, il giocatore del Togo, quando ti va male, ti trovi in mezzo a conflitti a fuoco. Questo è un altro aspetto ed è clamoroso, come era quello successo in Angola qualche anno fa. Però fermandoci sull'aspetto strettamente calcistico, strettamente agonistico, è una competizione che sfugge a tutte le regole internazionali. Cioè, c'è un calendario internazionale che vale per tutti, che viene approvato, e poi c'è la Coppa d'Africa, che è una cosa completamente surreale, al di fuori. E poi ogni due anni durante il campionato, insomma. Francamente, però voglio dire, si sa che c'è, e quindi poi quando prendi un giocatore africano, evidentemente devi saperlo prima. Io ringrazierei Dragonetti, vuoi aggiungere qualcosa? Come succederà, si dice? Anche con i mondiali del 2022 in Qatar. Quello potrebbe essere la Gerasi, però lì i mondiali si ferma tutto, non è che i campionati vanno avanti, capito? Mentre qui i campionati vanno avanti. Come si dice grazie? Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Grazie. Che sensuale questa lingua, prego. Bucacci. Bucacci a me mi ricorda Amatrice. Bucacci Amatrice. Che cosa abbiamo adesso, gente? Abbiamo la borsa, la poi borsa. C'è Salvatore poi da Vicenza, 800 24. E poi andiamo a Mosca. Andiamo a Mosca. Andiamo a Mosca. No, non in quel freddo, senso lì. Andiamo a Mosca. Cane. Ci colleghiamo, sì. Va bene. 14.30 si parte tra poco. Inizia la sfida, ma è solo un gioco. Folla ai cancelli e spalti gremiti per un gioco antico con moderni miti. Tutti convocati. Andrea Agnelli ha detto una cosa diversa. Forse è stato un po' ingenuo in qualche momento, perché lui voleva soltanto dire che io posso anche dire che non è stato fatto niente, si può perdonare Moggi per qualche banalità. Quello che non perdono è chi si è messo in tasca lo scudetto senza averlo vinto. Era questo il senso della frase. Credo nella mia attività di aver fatto solo del bene. Vogliamo dire che ho quasi archiviato, però lotto, sapete per chi lotto io? Lotto, e forse l'unico rimpianto è questo qui e spero di poterci riuscire, per coloro che senza colpe sono entrati in mezzo a una cosa che praticamente non toccava loro, e sono gli arbitri. Sono gli arbitri, perché se andiamo a esaminare le problematiche di questi signori, 10 sono stati archiviati ci sono state delle assoluzioni, ci sono state 10. Poi sono rimasti 4 con noi. Uno addirittura non ci ha arbitrato neppure una partita, un povero diavolo che è stato messo a pane e acqua, senza lavoro ed è dattilo. Credo nella mia attività di aver fatto solo del bene. Anche perché volevano ritornare in possesso di una squadra che, e di una società che era gestita da Umberto Agnelli, purtroppo morto, e praticamente dovevano fare qualcosa. Io poi quello che è successo l'avete visto tutti, ho capito qualcosa ma non ho capito niente. Ho soltanto sentito dire in un'assemblea da Di Maio, che era l'addetto alle pubbliche relazioni della Fiat, da quando la Juventus non vince più si vendono più macchine. Questo poi che voglia dire non lo so, credo nella mia attività di aver fatto solo del bene. Questo era Luciano Moggi, quello vero, non era un imitatore. Luciano Moggi ieri sera al processo del lunedì: credo di aver fatto nella mia vita solo del bene, convinto lui, convinti tutti o no. 800 24 00 24, se volete dire qualcosa in proposito. C'è stato anche un conte attapirato, mi risulta? Sì, c'è stato un conte attapirato. Sentiamo. Sono conte come l'altro. Sono conte, buongiorno. Tutto bene? Sì, grazie. Mister, siamo venuti a darle questo premio perché abbiamo sentito le ultime affermazioni. Mi giro e mi trovo da solo. Cosa è successo, for mister? Raccontiamolo agli italiani. No, quello che avevo da dire l'ho detto, quindi... La federazione l'ha abbandonata? No, assolutamente. Forse gli allenatori delle altre squadre? No, assolutamente. Che non le danno i talenti? Ricordo che quando lei era allenatore un po' si attapirava quando arrivava il mister della nazionale e le prendeva i talenti, vero? Mi ricordo bene. Noi abbiamo una grandissima disponibilità nazionale, visto che formiamo tantissimi calciatori italiani. Mi aspetto almeno una mezza chiamata a dire: oh, stupido, come sta Giorgio? Pensi che sia giusto o è giusto che questa settimana la utilizzi per allenarsi? Ognuno giustamente pensa al proprio orticello, no? Quindi io adesso sono dall'altra parte, quindi devo pensare un po' a tutti, ecco. E questo era Conte attapirato. Orticello. Stupido. Come sta Giorgio? Ma dai. Salvatore Vicenza, buongiorno, grazie dell'attesa. Da un'ora, povero Salvatore. Salvatore, speriamo che sia ancora. Buongiorno, eccomi, buongiorno. Volevo eccoci rispondere qui un attimino a Moggi, intanto. Posso? Sì. Uno. Credo nella mia attività di aver fatto solo del bene. C'è una discrepanza nei punti di vista, sì. Poi volevo dire, come la vedete in prospettiva futura il fatto che, per esempio, io sono un arbitro, arbitro ancora a livello amatoriale, però un arbitro come Romeo, per esempio, che ha smesso l'anno scorso, sia accompagnatore della squadra di una squadra di Serie A? Grazie, voglio sapere il vostro punto di vista. Grazie. Non ho proprio... Cosa ne pensi del fatto che Romeo, che è stato arbitro di Serie A fino all'anno scorso, faccia adesso l'accompagnatore di una squadra? Beh, no, mi rendo conto che possa essere in qualche modo imbarazzante, anche se poi uno nel momento nel quale chiude una carriera può cominciare un'altra. C'era stato anche l'esempio di Braschi, che ricorderete è stato dirigente del Siena, e adesso c'è Paparesta che è presidente del Bari. Insomma, diciamo che la cosa importante non è secondo me un discorso, cioè il dubbio ci può essere, l'importante è mettere un punto, insomma. Io no, ma non poi credo... insomma, è gente che ha lavorato in un settore, e dopo va a lavorare in un altro, insomma. Sì, ci può essere il sospetto che possa aver avuto delle relazioni talmente privilegiate con un club, ma insomma mi sembra un po' dietrologico, sinceramente. Credo che se uno mette un punto poi è libero della sua vita di trovare un'altra occupazione. Tu dici. Certamente se la cosa avvenisse in contemporaneità questo è evidente, non credo sia nemmeno possibile. Bernardo da Firenze o Patrizio dalla provincia di Terni? Bernardo. Per ordine di prenotazione. Bernardo, sì. Prego. Linea 3. Bernardo. Ora mi chiamano, ombre. Ma davvero? Bernardo? Sì, buonasera. Sì. Buonasera, dica. Buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Sono un tifoso juventino. Sì. A Firenze, Sì, mi diverto un sacco. Senti, quanti juventini ci sono a Firenze? Facciamo un attimo un censimento. Ma diciamo che nella 20%. Provincia, soprattutto in Toscana, siamo diverse migliaia, questo sono sicuro. Ma comunque, a parte questo, ognuno è libero di fare perché gli pare. Ci mancherebbe. Allora, volevo dire semplicemente che quest'anno mi diverto molto di più con la Juve di Allegri che con quella di Antonio Conte, perché la Juve gioca molto più spigliata, secondo me molto più tranquilla. A me personalmente piace molto di più. Vedo giocatori leggermente più, non so, più tranquilli. Secondo me è una svolta. È una svolta delle ultime partite. E soprattutto sono contento per il fatto di giocare a 4 dietro. Mi sembra comunque una squadra che, cioè, o meglio, degli interpreti, dei giocatori che sentivano il bisogno di un cambiamento. Me, sì. Sì, no, non, diciamo che non ce la facevano più. Cioè, Conte è un grande allenatore, ma ti chiede talmente tanto. Secondo me, allenatori così. Possono avere un ciclo triennale, esatto, vale per esatto. Conte, vale per Mourinho. Sì, sicuramente c'è un aspetto di logorio, io credo più che fisico, addirittura psicologico. Credo che la novità della difesa a 4 sia la novità vera, importante. Ho commentato Lazio-Juve, sono rimasto sconvolto in positivo dalla grande prestazione della Juve, che è stata veramente eccezionale, ma soprattutto sono multitasking, nel senso che sono riuscito finalmente a trovare una presa per il telefono. Sì. Mentre dicevo questa, la difesa a 4 adesso, oggi c'era anche, non mi ricordo su quale giornale, forse sul Corriere dello Sport, c'era un'inchiesta su questo. Non deve diventare un pregiudizio ideologico quello della difesa a 4, ci mancherebbe altro. Però insomma, non è che a 4 per forza si giochi bene, a 3 si giochi male. Conte ha vinto a giocare a 3, giocava a giocare le partite eccezionali. Però il vento in questo momento va nella direzione del ritorno al gioco a 4, insomma, e questo è abbastanza oggettivo e abbastanza europea come tendenza. Anche perché, volendo, in questo momento Conte 3 difensori centrali non ce li ha. Esatto. Quindi, esatto. Anche volesse giocare a 3 tra i difensori centrali, non ce li ha. Barzagli fuori, Buona fuori, gli ha fuori praticamente tutti. Ci segnalano valanga di telefonate su Moggi. Andiamo da Patrizio, provincia di Terni. Ciao Patrizio. Ciao, buonasera, grazie per la convocazione. Dove sei? Narni Scalo, Amelia, dove sei? No, sono di un paese vicino Orvieto, di Fabbro. Ah, Fabbro, certo, c'è anche un famoso autogrill. Ristorante, sì, conosciuto soprattutto questo paese per la bettola del butto. Facciamo anche un po' di pubblicità. Facciamo pubblicità, sì, sì. Stasera il signor Patrizio, sconto del 50%. Ecco. Prego. Perfetto. Io volevo rispondere, dato che sono da quelle parti in viaggio, al signor Luigi Di Trani, mister Orecchietta. Sì. Volevo ricordarle al signor Luigi Di Trani che c'era in tempi diciamo più lontani rispetto a Calciopoli, già un'altra assistenza del signor Guariniello, forse lui ha memoria corta. Per cui io, che sono uno degli innominabili, chiaramente tifoso interista, gioisco, come dice Mughini, e avorro se ancora c'è qualche personaggio che mette in discussione tutto ciò che è successo e che poi è passato giudicato da un giudice. Per cui sì, il signor Luigi Di Trani che si facesse un bel piatto di orecchiette e stesse tranquillo, sì, perché quel periodo poi penso questo, che la Juventus secondo me era talmente forte che non aveva neanche bisogno di tutto quello che poi è successo. No, questo, vabbè, questo è un altro discorso, però, questo è un altro discorso, ed è vero, cioè, questa è never ending story, la famosa finale del 2006 con tanti juventini, questa storia non finisce mai, non ti illuderti Luigi Pallo, ma io mai. I miei 30 secondi su Calciopoli a Mughini glieli chiedo ogni puntata. C'è il signor Paolo Assogna a Mosca, come va? Fa freddo? Ciao ragazzi, ben trovati. Ciao Paolo. Ben trovati. Vedi come si cala subito nella realtà della radio nazionale, nazional popolare, ben trovati. Com'è lì il clima? Meno 5, meno 6 Paolino, com'è? Ma sì, si va verso il meno 10, ma c'è una cosa peggiore Pier, secondo me, che è il campo. Ieri eravamo, lo vedevamo, c'era anche Rudy Garcia molto infastidito dalla qualità del campo, perché sai, una squadra che peraltro fa possesso palla come la Roma ha bisogno di un campo ben rasato, e invece un po' più l'erba troppo alta secondo me, e anche con delle buche, per carità, giocano in 22, sono penalizzati tutti e 22, però questo aspetto, ripeto, ha infastidito molto l'allenatore della Roma. Senti Paolo, è confermata l'idea di Nainggolan esterno difensivo di destra? Che bello, sto su Radio 24, vi ascolto tutti, finalmente sto sulle vostre frequenze. Roba seria. Ti facciamo fare poi anche un passaggio da Cruciani, sulla legge elettorale. Se mi chiama la zanzara mi commuovo proprio. E guarda, sta ancora pensando di mettere a destra. Gli ultimi rumors ci davano Florenzi protagonista terzino, perché Nainggolan è troppo importante e quindi non se la sente di togliere da mezzo il campo. C'è una fotografia che rappresenta perfettamente l'efficacia di Nainggolan in questo periodo contro l'Atalanta, recupera palla con un contrasto, rifinisce l'azione dopo 30 metri di corsa e la va a finire dopo il dai e vai con gli Aic. Quindi ripeto, una fotografia di una efficacia e di una capacità di fare tante cose che ce lo danno. Poi, come Paolo, ma Florenzi è anche molto più adatto, è chiaro che Florenzi è uno di quei giocatori talmente duttili, polivalenti, che poi alla fine certe volte forse addirittura penalizzato dal saper fare bene tante cose diverse, però mi sembra che abbia comunque a un altro passo da terzino rispetto a Nainggolan, o no? È vero, tra l'altro Garcia ci ha sempre raccontato che il suo calcio è fatto di due difensori centrali che stanno fermi, un volante stile brasiliano che è De Rossi, che è a protezione di questa coppia, e poi con gli esterni che fanno, e nell'andare ovviamente sono d'accordo con te, Florenzi mi sembra molto più adatto rispetto a Nainggolan. L'altra notizia è che rinuncia al tridente Garcia, capisce che non è un momento brillantissimo per il suo gruppo e quindi preferisce mettere un centrocampista in più. Tutti e quattro i tenori del centrocampo quindi saranno dal primo minuto in campo. Quindi Keita, De Rossi, Pjanic e Nainggolan. Abbiamo il traffico. Hai altri due minuti, Paolo? Ci mancherebbe. Ok, dai. Allora, vuoi lanciare tu il traffico o entrare nel clima? Da Mosca, dai, lancia il traffico. Ok, sentiamo il traffico. Tutti convocati. Pierluigi, cosa stavi chiedendo a Paolo Assogna? No, c'è stato un momento carrambata innanzitutto, e qui c'è Valeria Bernardi che lavorava con Paolo Assogna in una radio romana un po' di anni fa, quindi, sì, quindi momento dopo la nipote di Ricci, oggi è una giornata. Si parla di Panucci e Capello della federazione in Russia, tu che leggi perfettamente il Cirillico, avrei letto la Pravda e tutti gli altri giornali. C'è del servosismo, cioè, mi sembra di aver capito. C'è qualche di confusione, qualcosa che non funziona. Un po' di confusione, sì. Va bene, insomma, condizioni quindi atmosferiche così, campo che non aiuta la Roma. No, io volevo chiedere a Paolo anche qualcosa su Maicon. Sai, Maicon, cioè, c'è questo caso diplomatico. Quali sono i rapporti adesso tra Maicon, la Roma, Garcia? Sappiamo che ha questa infiammazione cronica al ginocchio. I medici hanno detto ma potrebbe anche giocare, lui ha detto non se ne parla neanche e non è andato a Mosca. Ma guarda Carlo, esiste un problema, nel senso che quando arrivò l'anno scorso Maicon fu chiaro con i dirigenti della Roma, io ho avuto questo problema a Manchester e disse per giocare mi devo gestire, quindi non devo seguire i ritmi di allenamento collettivi, devo fare un lavoro tutto mio. L'anno scorso questa cosa andò molto bene, quest'anno è arrivato un nuovo preparatore nella Roma, Rongoni, ex Lazio, che lavorava con Garcia dai tempi di Le Mans, che ha provato a forzare un po' questo concetto, a mettere in discussione le certezze di Maicon, gli ha detto che poteva forzare, Maicon non è stato per niente d'accordo, hanno avuto anche degli scontri molto duri, non è facilissimo prendere di petto Maicon che ha le sue idee. Certo. Esatto, diciamo questa cosa ha creato delle tensioni effettivamente, quindi in questo momento c'è questo problema perché Maicon sì. in qualche modo sta pagando le conseguenze di quella di questa scelta di non dar diretta a 300. E poi c'è Paolo, c'è anche la Champions. Io credo che i carichi di lavoro, uno dei motivi dello straordinario successo della Roma l'anno scorso, oltre alla qualità ovviamente del gioco, la novità di Rudy Garcia, è stato anche il fatto di aver fatto una preparazione particolarmente leggera all'inizio, no? Di scarico per correre tanto all'inizio, che con le tre competizioni forse è un po' più complicato, penso. Sì, però quando si parla con la società ti dicono sempre che c'è una componente di casualità, ovviamente difendono il lavoro di un loro tesserato, però d'accordo il discorso Champions, quando però dopo 2 mesi e mezzo di stagione vai a contare una quindicina di problemi muscolari, capisci che c'è qualcosa quantomeno da mettere in discussione. Sì. Grazie Paolo, ciao, buon lavoro, ciao ragazzi, buon ciao, lavoro ciao, la ciao, sua ciao. Mosca, ciao, ciao Paolo Assogno, ciao, eccolo qua. Ecco l'ultima domanda, quella scomoda che lei non vorrebbe mai sentirsi fare, quella su Balotelli. Se la faccia lei una domanda su Balotelli, così non gliela faccio io, si dia anche una risposta. Notte alta e sono sempre tu. Non ce n'è domanda né risposta. In questo momento non è che stia giocando molto bene. Non ce n'è domanda né risposta, ecco. Cosa ne pensa di Balotelli? Visto che l'ha riconvocato, si è fatto male, poi adesso va di notte a vedere le gare di wrestling. Ma è un giocatore di calcio, voglio dire. È dinamico, magari è più dinamico rispetto a me. Lo riconvocherà allora, mister? Gli darà un'altra chance, anche se la nazionale Dio, non è solo Balotelli, no? Dio vede, provvede, si dice. Grazie di nuovo, arrivederci. È sempre Conte attapirato, non male questo messaggio, se gli juventini in provincia di Firenze sono alcune migliaia, allora si nascondono bene, scrive un tifoso viola. Marco Treviso, buongiorno, poi chiudiamo. Dica Marco. Allora, io volevo parlare del calcio africano, ho fatto 20 anni in Camerun, sì. Come ho abitato lì, non ci sono campionati regolari in quasi tutti i paesi dell'Africa, come fanno poi a organizzare una coppa africana? Questo è evidente, non è il problema più grande che ha l'Africa. E poi volevo tornare sulla questione della mamma di Adebayor. Ha ragione Adebayor ad accusare sua mamma di stregoneria. Perché la stregoneria te la può fare solamente uno della tua famiglia. Questo è l'aspetto culturale. Ho capito, ha ragione Adebayor. Allora, siccome si ragiona in questi modi, come si fa a organizzare una Coppa dell'Africa? E non lo so cosa può c'entrare la mamma di Adebayor, che è stata cacciata di casa dal figliolo perché è accusata di stregoneria. La Coppa d'Africa diventa una... Cioè, Adebayor is on fire, come cantavano i tifosi all'Arsenal prima che si trasferisse al Tottenham. Clamoroso tradimento. Marcello dalla provincia di Livorno. Abbiamo un minuto. Dica Marcello. Buonasera. Dica. Livornese Doc, col barchino? Col barchino? Cosa? Livornese col... No, senza barchino. No, senza barchino, col gommone. Col gommone, grande qualità, sì. Prego, dimmi Marcello. No, volevo intervenire su Moggi, il quale in questo paese uno con una sentenza giudicata si permette di calpestare qualsiasi giudizio. No, ma lui dice che ha fatto solo del bene, ma quindi dalle intercettazioni risultava in maniera chiara che l'allora presidente della Fiorentina tentò di salvarsi e lo chiamò, e casualmente la Fiorentina quell'anno si salvò. Vorrei che spiegasse se anche quello era un tentativo di farsi bene. Qui il discorso si fa lungo e difficile, per fortuna abbiamo finito la puntata. Secondi. Però insomma è una testimonianza con il nostro ascoltatore da Livorno, con gommone, che ovviamente rimane nell'etere. Noi ci sentiamo domani. Salutiamo la Fiera Ro, salutiamo Matching Sharon Grove. Ty Cobb definì Shoeless Joe il più grande esterno sinistro di tutti i tempi. Diceva che il suo guanto era una calamita per le battute degli avversari. Era anche un bravo battitore. La sua media battuta fu di 356, la terza più alta della storia. Poi, nel 1919, la sua squadra, i Chicago White Sox, si vendette alcune partite. Che significa si vendette? Che le perse di proposito. I giocatori furono pagati per farlo. Anche Shoeless Joe prese i soldi. Ma nessuno riuscì mai a dimostrare che fece qualcosa per perdere quelle partite. Insomma, come ti spieghi che durante i playoff la sua media fu di 375 e non commise un solo errore, eh? 12 valide e 3 punti portati a casa. La federazione squalificò a vita 8 giocatori, compreso il grande Shules Joe Jackson. Squalificò a vita? Che vuol dire? Che non li fecero più giocare. Convocati.